Alla Vino di Mezzo, frazione di Anzola, i cittadini si stanno battendo contro un progetto che prevede la realizzazione di un ipermercato, un parcheggio e anche delle nuove abitazioni. Ne parliamo con Arianna Di Donato del comitato, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, per prima cosa ti chiedo se ci puoi spiegare in cosa consiste questo progetto. Questo progetto che abbiamo appreso purtroppo di recente, alla fine dell'anno 2022, quando è venuta la ribalta, la gravità della cosa, consisterebbe in un ipermercato di oltre 10.000 metri quadri superficie coperta, il che significa una superficie di vendita di 6.000 metri, con quindi il resto sarebbero magazzini e laboratori dell'ipermercato. Consisterebbe in una dimensione appunto di grande superficie di vendita, ipermercato. 183 alloggi in palazzine di 5-6 piani in edilizia convenzionata e sociale, il tutto corredato dai parcheggi, che sarebbero oltre i 1.000 per l'ipermercato e 500 per gli appartamenti, più un parco, definito parco urbano, molto distante diciamo dalla rete di scorrimento della Via Emilia e dalle abitazioni, verso la campagna. Purtroppo dobbiamo dire che questo parco è visto come una compensazione alla cementificazione che verrà, ma secondo noi è una compensazione irrisoria, purtroppo, perché è in un'area che è già attualmente verde, quindi non compensa una cementificazione, invece che copre delle aree attualmente adibite a parco, e si trova sotto i tralicci dell'altissima tensione, dove anche le segnalazioni degli organismi tecnici competenti hanno evidenziato dei rischi per la salute nel caso di sosta in quest'area per più di 2-3 ore, insomma. Voi perché siete contrari? Noi siamo contrari perché riteniamo che innanzitutto non ce ne sia bisogno, perché un ipermercato del genere coprirebbe un'utenza molto distante da quella di Lavino, perché Lavino è attualmente coperta come supermercati da altri 4-5 sul tratto della Via Emilia di appena 8 km, tra cui l'ipermercato Centroborgo, poi ad Anzola c'è la Coop, la Conad, un discount, si parla di un'ulteriore apertura di un altro supermercato, Eurostin. Adesso sono ancora voci, però pare che sia in progetto anche questo ad Anzola, e un tale intervento provocherebbe un aumento di traffico spropositato per l'area, quando la viabilità rimarrebbe, le strade rimarrebbero le stesse, sì, con allargamenti sulla Via Emilia a carico del soggetto attuatore, ma ad uso e consumo del supermercato. Noi vedremmo già il traffico congestionato nelle ore di punta solo aggravarsi, perché come dicevo appunto questo iper attirerebbe clientela da fuori provincia, se non da fuori regione, quindi non è a beneficio dei lavinesi. È tutto previsto per l'utilizzo dei camion e dei mezzi di trasporto automobilistici, non è previsto un servizio ciclopedonale per gli anziani, cosa che all'inizio era stata richiesta dalla cittadinanza, che si fosse disponibile a Lavino un piccolo punto vendita per la spesa alimentare, in modo che gli anziani che non possono o chi non ha la macchina potesse essere autonomo. Purtroppo non è stato pensato per questo, nonostante quello che vogliono far credere. Noi non siamo favorevoli per il consumo di suolo, perché questo intervento produrrebbe una cementificazione spaventosa di quest'area. Attualmente verde, attualmente esiste un parco che crea un intercapedine tra le abitazioni e la Via Emilia, che verrebbe cementificato ad uso parcheggio. Il supermercato stesso ha un'area coperta molto estesa, e le palazzine a loro volta produrrebbero un'altra cementificazione. Tutto questo in un'area dove ci sono capannoni dismessi. Ieri ho fatto una ricerca su immobiliare.it dei capannoni in vendita o in affitto. Nella zona ce ne sono 27. Secondo noi, prima di cementificare in un'epoca di crisi climatica, estati roventi, produzione di isole di calore, prima di cementificare ulteriormente, un'amministrazione dovrebbe guardare ogni possibilità di riqualificare l'esistente. E qui non, oggettivamente non c'è stato questo sforzo. sforzo. Proprio a proposito del comune, il sindaco ha difeso questo progetto sostenendo che è voluto da ampia parte della cittadinanza e dicendo che sostanzialmente non si può più tornare indietro. Voi però contestate questa cosa? Eh sì, perché non è vero, di fatto non è vero che non si può più tornare indietro. Devono essere conclusi almeno altre due fasi decisionali, quella della conferenza dei servizi che è aperta sul tavolo in città metropolitana, dove stanno ancora facendo delle valutazioni di impatto ambientale e impatto sulla viabilità e il traffico connessi ad altri interventi di rilievo metropolitano come il polo logistico di Valsamoggia, che è a confine con Anzola, che produrrà un altro incremento spaventoso di traffico. Purtroppo quello non è stato possibile evitare, fare battaglie, perché non riguardava il nostro comune, noi stessi non siamo riusciti ad arrivarci in tempo, quindi sta già venendo realizzato, ma quello produrrà uno stravolgimento del traffico pesante incredibile, e quindi stanno valutando in città metropolitana anche gli impatti in connessione con altri interventi. E inoltre deve essere ancora votato dal Consiglio Comunale, che è l'organo sovrano per la decisione. E queste sue dichiarazioni, insomma, sono poco veritiere, un po' scoraggianti per la popolazione, ma noi vogliamo dire la nostra e incoraggiare invece a difendere il nostro territorio. Avete raccolto anche già delle firme che insomma sono già oltre 2500 su una popolazione di 12.300 abitanti, quindi insomma una fetta consistente. Sì, esatto, abbiamo raccolto tantissime firme in un weekend, l'11-12 febbraio, ne abbiamo raccolte 1300 cartacee. Presto le andremo a protocollare in comune e le presenteremo sia al Consiglio Comunale di Anzola che in città metropolitana, più le 1600 online, quindi andiamo quasi sulle 3000. È un bel risultato, insomma, ci siamo confrontati anche con altri comitati che stanno facendo battaglie analoghe alla nostra, loro hanno raggiunto questi risultati in anni di raccolta firme, noi in un weekend. Questo non vuol dire che siamo più bravi, ma è che l'intervento è oggettivamente una cosa che sta mettendo le persone davanti a un problema e lo sentono in tanti. Questo un'amministrazione lo dovrebbe ascoltare fortemente. Giovedì prossimo ci sarà anche un flash mob, giusto? Giovedì prossimo, sì, c'è un bel evento all'oratorio San Filippo Neri in centro a Bologna con esperti di rilievo nazionale sul cambiamento climatico, la rigenerazione e riqualificazione. Sarà presente anche il sindaco di Bologna e mi sembra il ministro degli interni Piantedosi. È un evento proprio che parla dei motivi per cui noi combattiamo e quindi non abbiamo visto quale occasione migliore per farci vedere e far presente la nostra causa attraverso un piccolo flash mob che si terrà lì davanti per ottenere più visibilità possibile. Ecco, insomma, con queste parole abbiamo dato voce anche alla cittadinanza e non vogliamo che le voci del sindaco sia sola. Buona giornata allora. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.